e frema implacabil geni. Sostengo il suo furore, questo cor non cederà, questo cor non cederà. No, no, questo cor non cederà. Questo cor non cederà. Venga pur minacce frema, suo furore questo cor non cederà, non cederà, questo cor non cederà. Venga pur minacci e frema, minacci e frema, implacabile genitore. Sostengo il suo furore, questo cor non cederà. No, no, questo cor non cederà. Questo concederà. No, no. suo furore, questo cor non cedera. Al suo sdegno, al suo furore, questo cor non cedera.